Ore 22:48 di lunedì 18 novembre 2024, a consuntivo della Biennale di Venezia. Anche dopo essermi consultato con mia figlia, siamo d'accordo sul fatto che il tema delle crisi, di un'epoca di grandi movimenti di persone e il tema del grande estraniamento di un'intera civiltà è un tema troppo difficile, nel senso che sono davvero pochi gli artisti e anche, mi verrebbe da dire, i paesi che sono riusciti a non cadere nella trappola di semplicemente metterci una foglia di fico, cercare di essere politicamente corretti. Sono pochi gli artisti che sono riusciti a metterci della vera arte. Era forse un'impresa un po' troppo ambiziosa. Mi sembra che si possa dire alla fine che ci sia riuscita l'Australia, che non a caso ha vinto col suo padiglione, un grande progetto di recupero di tutte le connessioni tra mondo aborigeno e cultura anglosassone, diciamo così. C'è riuscita, lo dicevamo, forse anche la Polonia, forse anche la Grecia. Complessivamente però, rispetto alla Biennale due anni fa, forse un passo indietro, che però non mette minimamente in discussione quello che sostengo da tempo, e cioè che l'arte contemporanea riesce a darci molte più notizie di quello che riesce a fare il mondo dei media, troppo vincolato dalle proprie esigenze economiche, da un modello di business tossico. L'arte è una delle poche vie di fuga, via di salvezza da questo meccanismo. Dal Frecciarossa è tutto, torniamo alla vita pendodelirante romana.